Il primo relatore di oggi è il professor Ignazio Sanna, che è ordinario di antropologia teologica alla Pontificia Università Lateranense. Il professor Sanna ha studiato a lungo il pensiero di Karl Barth. Tra i suoi scritti ricordo in particolare Dalla parte dell'uomo, la Chiesa e i valori umani e Chiamati per nome, un saggio di antropologia teologica. Il tema della sua relazione, secondo le sue competenze, appunto di natura antropologica, e ha per titolo L'uomo immagine di Dio nella teologia rosminiana. Ecco, do la parola al professor Sanna. Io ho raccomandato ai relatori, ho ricevuto qualche giusta resistenza, di tenersi nei 50 minuti per lasciare un po' di spazio alla discussione, che effettivamente è stata un po' carente per la ristrettezza dei tempi. Vediamo se oggi riusciamo a recuperare qualche spazio in più per la discussione, che è un momento altrettanto interessante che le relazioni. E bisogna schiacciare on, no, a destra credo che sia. Ora funziona? Bene, anzitutto chiedo scusa se anche nella presentazione è continuato un po' l'equivoco del De Priant, non si è fatto in tempo a cambiare il titolo della relazione del De Priant. In effetti non parlerò del tema dell'uomo immagine di Dio, ma del peccato originale, e tratto un punto specifico, la volontarietà del peccato originale in Antonio Rosmini. Se avete la bontà di tenere sott'occhio la sintesi che è stata distribuita, è più facile seguire lo sviluppo del discorso. Numero uno, la volontarietà del peccato originale. La volontarietà del peccato originale è un dato certo del magistero e della teologia. La riflessione teologica ha interpretato costantemente questo dato dogmatico e magisteriale, affermando che il peccato originale ha un certo grado di volontarietà, e data la specificità di questa volontarietà rispetto a quella dei peccati personali, la collegata direttamente alla volontarietà del peccato di Adamo. Peccato originale, dunque, è volontario, ma non è di una volontarietà vera e propria, ma di una propria volontarietà che si fa risalire al peccato di Adamo. Questa era la dottrina communis insegnata dai manuali di teologia contemporanei al Rosmini, come quelli di Cazzariga, Perrone, nonché dei discepoli di quest'ultimo, Palmieri, Mazzella e Hurter. Questi manuali e in quelli degli anni successivi la volontarietà del peccato originale veniva sempre affermata ma quasi mai spiegata. Talvolta per giustificarne l'esistenza si faceva ricorso ad una non meglio specificata ratio occulta. Punto 2. Spiegazioni insufficienti della volontarietà. Ora, questa spiegazione, che possiamo definire con una inevitabile semplificazione naturalistica dell'essenza e della trasmissione del peccato originale, si presta a molte obiezioni di carattere morale, fisico, biologico, epistemologico. È difficile, soprattutto dal punto di vista morale ed esistenziale, accettare una colpa che non sia una colpa personale. Molti teologi, come Karl Rahner, vedono il voluntarium come tale solo in Adamo e ritengono che quello che passa alla discendenza sia soltanto il peccato attuale, cioè la mancanza della grazia santificante. D'altra parte, una spiegazione naturalistica e biologica, tra virgolette, della trasmissione del peccato originale risulta inevitabilmente legata in modo acritico alla premessa della origine monogenistica dell'umanità. Oggi non più ritenuta plausibile neppure dal catechismo della Chiesa Cattolica. D'altra parte è estremamente riduttivo considerare la realtà del peccato originale quasi esclusivamente in connessione con i bambini non ancora battezzati, senza prenderne in considerazione contemporaneamente le gravi conseguenze nell'adulto battezzato e nel peccato personale dell'adulto, dove si manifesta nel grado maggiore la mancanza di mediazione positiva di grazia, la solidarietà negativa inadatta. La prospettiva che domina nella scrittura e che va comunque recuperata è la forza del peccato manifestata nei peccati personali. Da Agostino in poi praticamente si è considerato il peccato originale quasi esclusivamente in rapporto alla situazione dei bambini appena nati. Ora questo è certamente un aspetto del problema, ma se lo si fa diventare il problema centrale si compie una scelta unilaterale. Teologicamente il caso dei bambini è un caso limite e non è molto opportuno nell'affrontare e studiare un problema partire da un caso limite. Sarebbe come se si volesse studiare la questione della grazia per primum nei bambini, i quali peraltro non sono ancora capaci di compiere gli atti responsabili di conoscenza e di amore come una persona adulta. Punto 3. Di fronte alle difficoltà di concepire un peccato originale originato colpevole e volontario, molti teologi, ieri come oggi, si sono tirati indietro e si sono rifugiati nel mistero. Non era raro trovare nei manuali di teologia contemporanei a Rosmini espressioni come questa: il peccato originale è veramente un grandissimo mistero. E qui si chiudeva il discorso. Ora penso che l'intento principale di Rosmini nell'elaborare una teologia del peccato originale sia consistito sostanzialmente nell'offrire una spiegazione personale e umana di questo dogma fondamentale della fede cristiana, senza ovviamente voler eliminare da esso la componente di mistero rivelato. Rosmini non si accontenta di ridurre tutto a mistero inspiegabile. Vuole offrire una chiave di lettura del dogma in modo che esso non appaia in qualche modo contro l'intelligenza e la dignità dell'uomo. Il peccato originale è certo un mistero che non si può decomporre in termini razionalistici. Ci si deve chiedere tuttavia quale sia il vero e proprio fondamento in breve e nella nostra conoscenza di questo mistero. Per il Rosmini anche la cosmologia ha il punto di partenza nella psicologia e in ultima analisi nell'uomo. In base al suo soggettivismo metodologico, definizione di Clemente Riva, non si può non partire dall'uomo per affrontare i misteri della fede. La scuola teologica, scrive, partì dalla meditazione di Dio. Io partii semplicemente dalla meditazione dell'uomo e mi trovai non di meno pervenuto alle conclusioni medesime. Questo riuscire a un medesimo termine da due opposte strade e gli è parmi una conferma, una riprova della verità. Ma oltre a ciò, la dottrina, se non erro, ricevete per tal modo una nuova illustrazione, una maggiore evidenza e fors'anco lo stesso linguaggio trovò maggiore precisione e più sicuro e fermo andamento il ragionamento. Fine della citazione. Ultimamente il Dreverman ha scritto che bisogna verificare nella propria esistenza quello che la dottrina del peccato originale ha da dire. Altrimenti essa non ha semplicemente da dire alcunché, né a me né ad alcun altro. È quello che in qualche modo ha tentato di fare Søren Kierkegaard, i cui scritti rappresentano il modello classico di ogni tentativo di legittimazione esistenziale della dottrina del peccato originale col materiale fornito dalla esperienza psicologica. L'impostazione del Rosmini nel suo nucleo essenziale permette una comprensione più umana ed esistenziale della dottrina del peccato originale, pur nella diligente e puntuale salvaguardia di quelle verità centrali del dogma che comunque vanno salvate. Cristo è il fondamento di tutta l'economia della salvezza, che comprende creazione e redenzione. Ogni essere umano ha bisogno della redenzione di Cristo, da lui operata a beneficio di tutta l'umanità. Il bisogno della redenzione precede l'attuazione dei peccati personali. 4. Fonti della dottrina rosminiana. In ordine cronologico, la prima opera da prendere in considerazione è senz'altro l'Antropologia soprannaturale. Questo trattato teologico, che doveva fare seguito all'Antropologia in servizio della scienza morale, descrive il processo storico dell'umanità verso la perfezione morale attraverso le tappe successive dell'innocenza originale, della decadenza ad opera del peccato di Adamo e della redenzione operata da Cristo. Nel libro terzo, dal titolo dell'uomo peccatore per natura, si espone la dottrina del peccato originale, della sua essenza, delle sue conseguenze, della sua trasmissione nei discendenti di Adamo, nonché la questione dell'origine dell'anima intellettiva, intimamente connessa con quella della trasmissione del peccato originale. In una prima appendice di questo libro terzo è riportato un ragionamento storico-filosofico sull'origine degli errori intorno al peccato originale, probabile introduzione all'opera successiva sul razionalismo teologico, e in una seconda appendice è riportata la dissertazione sul peccato originale, una sorta di riepilogo di quanto scritto precedentemente. Questa prima opera è particolarmente importante perché è una trattazione sistematica, non originata da polemiche o discussioni, che inevitabilmente conducono ad accentuazioni unilaterali di determinati aspetti e alla dimenticanza di altri. Inoltre, da questa trattazione non sono state prese proposizioni da condannare. Lo scritto del Rosmini, che diede occasione alla polemica tra i suoi sostenitori e la scuola dei Gesuiti, è il Trattato della coscienza morale del 1839. In esso Rosmini, parlando della moralità che precede la coscienza, afferma che può esistere uno stato morale che non sia causato da un atto di coscienza. E per provare che esiste nell'uomo uno stato di peccato non imputabile a colpa di lui stesso, fa l'esempio del peccato originale. Il peccato dal quale la rivelata dottrina ci insegna che nascono affetti tutti gli uomini è un vero peccato e una vera colpa. Ma ove esso non si consideri che nell'uomo, che ne partecipa all'atto dell'essere concepito, e si astragga dalla libera volontà dell'uomo primo che ne fu l'autore, non può ammettere in sé la nozione di colpa, ma solo quella di peccato. Questo scritto fu aspramente criticato dallo pseudo Eusebio Cristiano, che respingeva sia la distinzione rosminiana di peccato e colpa, sia la sua concezione della concupiscenza. Per difendersi da queste accuse, il Rosmini compose la risposta al finto Eusebio Cristiano, che porta come sottotitolo «Dottrina del peccato originale in difesa del trattato della coscienza». Essa si articola in 5 diverse questioni. Segue l'operetta «Le nozioni di peccato e di colpa illustrate», operetta di Antonio Rosmini, pretero veretano del 41, che espone in maniera più pacata e meno polemica la distinzione tra il concetto di peccato e di colpa, documentata da ampie citazioni di San Tommaso. Un'ultima opera specifica sul nostro argomento è il razionalismo teologico, che tenta insinuarsi nelle scuole teologiche additato in vari recenti opuscoli anonimi, iniziata a stampare nel 43 e pubblicata postuma nell'82. In essa Rosmini, in una riflessione di ampio respiro, espone l'essenza del peccato originale, affronta le questioni relative alla volontà e alla libertà, proponendo la distinzione tra volontario e libero e quella tra peccato e colpa. Quinto, aspetti problematici della dottrina rosminiana. Gli aspetti della dottrina rosminiana che cadono sotto la condanna del decreto post obitum e che sono riassunti nelle proposizioni numero 33 e 34 riguardano sostanzialmente il modo con il quale il peccato originale viene trasmesso ai posteri. A proposito della proposizione numero 33, il Michel, il superamento della separazione tra natura e grazia, quale si dà nella ipotesi della natura pura, lo conduce a muoversi verso l'inclusione della ratio nella intelligenza di fede. Rifiutando il razionalismo come indipendenza della ragione, dal demonio, il quale, attraverso il frutto mangiato, entrerebbe nel corpo di Adamo e se ne impossesserebbe. Se il peccato originale è una infezione fisica, e se questa infezione fisica è nel corpo, obietta egli, come può essa intaccare l'anima e soprattutto come può essere cancellata dalla purificazione spirituale del battesimo? La spiegazione rosminiana non avrebbe niente a che vedere con la concezione fisica del peccato originale propria della dottrina tomista, che lo fa consistere materialmente nella concupiscenza e formalmente nella privazione della giustizia originale. E qui, per la par condicio, dobbiamo dare una opinione contraria. Giorgio Giannini, dal canto suo, sostiene che l'opinione del Rosmini, comunque la si possa valutare, non contiene nulla di eterodosso, anche perché non oltrepassa il limite della spiegazione congetturale con significato sostanzialmente allegorico. E fa notare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Michel, espressioni simili a quelle rosminiane si trovano nella liturgia e nella tradizione cristiana. Riguardo alla proposizione 34, è possibile trovare nel Medioevo dei precursori di Rosmini, quanto alla spiegazione della Immacolata Concezione con la trasmissione di una parte sana del seme umano contenuta nella cosiddetta teoria della particola sana. Questa idea, scrive il Michel, ispirata al traducianesimo agostiniano, è ormai da tempo rigettata. Essa non sembra facilmente conciliabile con la dottrina della bolla ineffabilis, che attribuisce a Cristo stesso, per modo di una redenzione particolare, la preservazione di Maria dal peccato originale. Giannini, invece, afferma che la dottrina di Rosmini è in piena consonanza con l'insegnamento della Chiesa. Dio aveva certamente infiniti modi per attuare il suo disegno, e quindi non si può dire che abbia scelto necessariamente quello ipotizzato dal Rosmini. Tale ipotesi, però, risulta lecita e possibile e non contrasta con nessuna verità rivelata, né appare in alcun modo formulata con temerarietà o leggerezza. Inoltre, e questo è molto importante, si fa notare che il Rosmini, nella stessa opera da cui è stata tratta la proposizione condannata, afferma chiaramente Maria Santissima fu certamente immune da ogni invasione del diavolo per grazia singolare ricevuta dal figliolo di cui ella è madre. Questa frase, stranamente, non viene riportata nelle proposizioni condannate. Il problema della trasmissione del peccato originale è intimamente collegato con quello dell'origine dell'anima. Non starò qui a fare ovviamente tutta quanta la storia, mi limito a dire questo: ecco, all'epoca del Rosmini, qualificata da lui stesso come il quarto periodo nella storia della questione, alcune scoperte scientifiche dei naturalisti avevano introdotto un nuovo concetto di generazione, secondo cui nell'ovaia protogenitrice sarebbero contenuti i germi da essa derivabili. Il pensiero filosofico utilizzò questa scoperta, così che Leibniz immaginò che questi germi primordiali fossero annesse tutte le anime sensitive. Canzio e Wolf supposero incluse in Eva le stesse anime spirituali e Di Vigerio concluse che quelle anime, insieme ai protoparenti, ascoltarono e trasgredirono il comandamento divino. Per correggere queste deviazioni, Rosmini avanzò la sua ipotesi, basata sulla teoria dei germi, accettata come pura potenzialità. Questa ipotesi del Rosmini è difesa con un lungo studio di esegesi biblica, di ragioni filosofiche e scientifiche, di obiezioni e risoluzioni, in modo da presentarla come plausibile e più adeguata a spiegare la trasmissione del peccato originale. Egli confuta le teorie dell'unità di natura, dell'unione sociale e di quella intellettiva dei discendenti con il capostipite, perché basate su un rapporto piuttosto estrinseco che non giustifica l'intera ragione della trasfusione. Infine, sottopone a una critica serrata le argomentazioni scolastiche sul creazionismo, soprattutto perché l'infusione dell'anima intellettiva a sostituzione della sensitiva farebbe perdere l'identità dell'uomo e perché trova incomprensibile che la nuova creatura possa venire viziata dal peccato di origine se l'anima discende purissima dalle mani di Dio. La sua spiegazione sarebbe immune, secondo lui, da tutte queste incongruenze. A questo riguardo ci sono diverse interpretazioni. Da una parte c'è la critica di Albino Luciani, ripresa da Cornelio Fabbro, e dall'altra parte c'è la difesa convinta, ovviamente, da parte di Clemente Riva. Rimando alle opere specifiche. Dopo aver accennato per sommi capi agli aspetti problematici della dottrina rosminiana relativi al modo della trasmissione del peccato originale a tutto il genere umano, voglio passare ora ad esporre la concezione rosmeniana della natura del medesimo, polarizzandola su alcuni binomi concettuali che considero come le coordinate teologiche del suo pensiero. Per il Rosmini, la moralità non è mai considerata in rapporto alla libertà, ma alla volontà, che può agire in modo libero o necessario. Peccato in genere è una deviazione della volontà personale dalla legge eterna. Peccato originale, specie, è una deviazione della volontà dell'individuo provocata dalla concupiscenza che attira a sé la volontà e la fa deviare dal retto ordine morale, privandola così della giustizia e della grazia. Nella concezione rosminiana del peccato originale, perciò, il primo elemento da prendere in considerazione è la deviazione della volontà dell'individuo e la prima difficoltà da risolvere è lo stabilire come possa essere volontario un peccato che non è attuale, che non comporta, cioè, un atto della volontà, quale è appunto quello originale. Rosmini ritiene di poter risolvere questa difficoltà proponendo, oltre la sua dottrina sulla costituzione del soggetto razionale quale principio senziente e intelligente, una prima distinzione tra volontario e libero. Siamo al punto 6. Secondo il Rosmini, peccato originale non è una macchia nel senso materiale della parola, perché è una realtà che tocca l'anima e nell'anima spirituale non c'è nulla di fisico. Esso non è neppure un disordine della natura animale, perché l'animalità in se stessa non è né buona né cattiva. Il disordine dell'istinto animale è solo la materia del peccato del soggetto. Esso invece è una macchia morale, è una libera decisione dell'uomo contro la volontà di Dio. Per la nozione del peccato di Adamo sono perciò necessari i due elementi dell'atto morale, la legge e la volontà, perché in Adamo si tratta di una libera trasgressione della legge e della volontà di Dio. Ma se l'esistenza di questi due elementi, la legge e la volontà, è chiara e comprensibile per il peccato originale originante, cioè quello di Adamo, è altrettanto chiara e comprensibile anche per la concezione del peccato originale originato, quello cioè che è presente nei bambini privi ancora dell'uso della ragione? Come si può parlare, per esempio, nel bambino di uno sregolamento della sola volontà, citazione di Rosmini, ossia di una, di una volontà di trasgressione della legge. Si può affermare che esiste una volontarietà nel peccato originale del bambino senza necessariamente interpretarla come una imputazione estrinseca alla volontà di Adamo e senza negare la definizione tridentina che ribadisce che il peccato originale è non solo comune a tutti, ma è proprio di ciascuno? Ecco, Rosmini risponde positivamente a tutti questi interrogativi introducendo la distinzione del volontario dal libero. E ovviamente non posso fermarmi sulle citazioni che specificano questa distinzione. Vengo al punto 7. Strettamente collegata con la distinzione tra volontà e libertà, tra volontario libero e volontario semplice, è un'altra distinzione tra peccato e colpa, riportata in modo particolare nelle opere Trattato della coscienza, nella risposta al finto Eusebio e nelle nozioni di peccato e di colpa illustrate. La nozione di colpa si distingue da quella di peccato in quanto vi aggiunge la nota del merito e del demerito, cioè il concetto di imputabilità. Mentre il concetto di peccato di per sé non include la nozione di volontà libera, ma essenzialmente consiste nella volontà che si oppone alla legge, il concetto di colpa importa essenzialmente il riferimento ad una volontà libera anteriore alla deviazione. Stante la descrizione del peccato come una declinazione della volontà personale dalla legge eterna e quella della colpa come una relazione tra il disordine inerente all'uomo e formante l'essenza del peccato e il principio libero che lo produsse e a cui si imputa, appare chiaro che non esiste di per sé un peccato che non sia, nello stesso tempo, anche colpa. Quelle due cose, dice Rosmini, non si, cioè il peccato e la colpa, non si possono nel fatto distinguere, per modo che un peccato potesse esservi senza che avesse avuto origine da una colpa, di guisa che egli, almeno in causa, non si potesse dir colpa. Perciò si deve precisare anzitutto che per il Rosmini la distinzione tra peccato e colpa è concettuale e non reale. La nostra distinzione non riguarda mai la cosa, ma solo il concetto. Diciamo mai sempre che al medesimo atto, ovvero al medesimo stato, appartengono tutti e due i concetti, quello di peccato e quello di colpa, ma che tuttavia questi sono concetti distinti. Gli atti umani, perciò, pur restando una realtà concreta unica, possono essere considerati con fondamento sia sotto l'aspetto formale di peccato, sia sotto quello di colpa. Se si applica poi la distinzione tra volontario libero e volontario necessario al caso in cui la volontà sia difforme dalla legge morale, si ha o la volontà difforme dalla legge per necessità o la volontà difforme dalla legge per libertà. Nel caso in cui la volontà sia difforme dalla legge per necessità, abbiamo il peccato. Nel caso in cui la volontà sia difforme dalla legge per libertà, abbiamo la colpa. L'uomo è colpevole dei suoi atti solo quando è il loro libero attore. È su questo dominio che l'uomo ha dei suoi atti che si fonda l'imputazione. Il concetto di peccato, dunque, appartiene all'ordine del genere. La colpa, invece, è una specie del peccato. Ogni colpa è anche peccato, ma non ogni peccato è anche una colpa. Abbiamo un peccato necessario e incolpevole, quale appunto quello originale originato, ed un peccato libero, colpevole, quale il peccato originale originante, ed i peccati attuali in genere. Rosmini è ben cosciente dell'enorme rilevanza teologica di questa sua distinzione e perciò a suo sostegno invoca l'autorità di Sant'Agostino e di San Tommaso per dimostrare che essa non è una novità assoluta nella tradizione teologica. Punto 8. Ma la singolarità della interpretazione rosminiana sta nel chiamare il peccato originale anche peccato personale. Essendo peccato del soggetto, diviene peccato della persona, perché è da essa che riceve la sua qualità di vero peccato come da suo principio formale. Ne deve far meraviglia se si tiene conto di come Rosmini concepisce l'imputazione. C'è una imputazione di peccato quando la persona umana con la sua volontà è opposta alla legge. Vi è una imputazione di colpa quando la persona oppone liberamente la volontà alla legge. Della colpa fu reo soltanto Adamo, che deliberatamente venne meno al comandamento di Dio, ma del peccato sono vittima quanti discendono da lui. Quindi, accanto alle classiche distinzioni tra volontario libero e volontario necessario, peccato e colpa, mi pare sia importante tenere presente anche questa distinzione tra appunto peccato personale e peccato naturale o di natura. Di fronte all'obiezione, infatti, che se il peccato originale è qualcosa di disordinato che inerisce all'anima dell'individuo e intacca la sua volontà, non è nient'altro se non un peccato personale, Rosmini afferma che se si considera il peccato originale in rapporto all'individuo che lo contrae, allora lo si può tranquillamente chiamare anche peccato personale. Salto il punto 9, conseguenze del peccato originale, e vengo al punto 10, recezione della teologia rosminiana. Rosmini ha definito la dottrina del peccato originale come la dottrina fondamentale della Chiesa Cattolica, quella che mette la grande separazione che esiste tra l'opera della Chiesa e l'opera del mondo. Lo stesso peccato originale è definito da lui come il fatto solenne della umanità che determina il vero e proprio suo stato. La sua concezione del peccato originale, che noi in qualche modo abbiamo voluto presentare con il principale intento di sottolinearne appunto la dimensione personale e umana, è stata oggetto di lunga e aspra controversia sin dal suo primo apparire. Essa, di fatto, non è stata ripresa da alcuna scuola di teologia ed è stata ignorata sia dai manuali di teologia dogmatica, sia dalle monografie sul peccato originale. Se si tiene conto della monografia, della bibliografia rosminiana del Cirillo Bergamaschi, si vede come su vediamo un po' se trovo la nota, non la trovo, comunque su 48 titoli, riferimenti bibliografici che sono riportati, ben 36 sono del secolo scorso e solamente 12 di questo secolo. E tra i titoli di questo secolo ci sono due tesi di laurea sul peccato originale, una di un carmelitano e una di un rosminiano, Bessero Belti, entrambe del 47, e altri due articoli. Ma niente, diciamo, di importante e niente di abbondante soprattutto. Auer gli dedica una brevissima menzione nel suo articolo sul peccato originale per il Lexicon für Theologie und Kirche, qualificandola come dottrina manicheistica. E il Michel, nel Dictionnaire de Théologie Catholique, confuta decisamente sia l'idea che l'essenza del peccato originale consista nell'infezione fisica della carne dell'uomo, e sia l'idea che l'Immacolata Concezione si spieghi con la trasmissione di una particola sana del seme. All'epoca delle polemiche, scrive il Bessero Belti, i troppi fattori extrascientifici e lo stesso fatto polemico impedivano un'attenzione serena alla dottrina in se stessa. Più tardi, quando furono pubblicati il razionalismo teologico e l'antropologia soprannaturale, si stava maturando quella opposizione globale al pensiero di Rosmini che culminò nel 1887 con la condanna delle 40 proposizioni. Quindi da questa spiegazione di questo silenzio Lo stesso Remo Bessero Belti, il 7 febbraio 1947, presso la facoltà di teologia del Pontificio Ateneo Lateranense, difese la tesi, la questione della volontarietà del peccato originale secondo la dottrina di Antonio Rosmini, con i relatori Carpino, Fares e Hertling. La tesi fu accolta con molta perplessità perché rosminiana e non tomista, e si dette il permesso di stampare solo la parte espositiva della concezione rosminiana. Il relatore Monsignor Fares osservava che il candidatus fidelis in esposizione dottrine Rosminis non est etamen fidelis ad principia teologica scole nostre et precise ad doctrinam sancti tome. La tesi quindi non poteva essere pubblicata. Ne videatur in nostra facultate teologica propone principia que sunt contra normas a sancta sede circa doctrinam sancti tome datas. Quindi aveva il torto di essere rosminiano, ecco, fondamentalmente. Eppure, dice Riva, uno sguardo approfondito alla vita e all'opera del Rosmini ci mostra una chiara finalizzazione teologica dei suoi studi filosofici. Tutto il suo sforzo di pensiero è in funzione di una sublime teologia. Questa rilettura della tematica rosminiana sul peccato originale, abbiamo cercato di evidenziare l'importanza di questa concezione della volontarietà per una moderna ricomprensione di questa verità dogmatica. Concludiamo ora il nostro breve saggio con qualche osservazione e qualche suggerimento su come accogliere oggi l'insegnamento teologico di Rosmini. Ciò che Rosmini vuole difendere è la realtà del peccato, affermata dai canoni del Concilio Tridentino, i quali ribadiscono la vera e propria ragione di peccato e l'inerenza impropria di questo peccato in ciascun individuo. Questa realtà di peccato può essere garantita solo dalla sua intrinseca volontarietà, perché peccato nullum est nisi voluntario. Perché chi contrae il peccato originale come suo proprio è la volontà dell'individuo singolo e non quella di Adamo. Ma perché il peccato originale sia un vero peccato, oltre alla volontarietà, ci deve essere anche la relazione con la volontà di Adamo, atteso il fatto che è stata condannata la proposizione di Baio, unde peccatum originis vere habet rationem peccati sine ulla relazione ac respectu ad voluntatem aqua originem habet. Questa relazione con la volontà di Adamo il Rosmini la intende garantire mediante la distinzione tra peccato e colpa. La ratio peccati è praticamente uguale in Adamo, primo peccatore, e negli uomini, peccatori suoi discendenti. La ratio culpe, invece, è diversa in Adamo e nel singolo individuo. In Adamo la colpa è volontaria libera, e quindi è vera colpa a tutti gli effetti. Nel singolo individuo la colpa è volontaria, necessitata, e perciò non gli può essere imputata allo stesso modo con cui è imputata ad Adamo. Se la ratio peccati del peccato originale consistesse nella imputazione alla volontà di Adamo, per togliere questo peccato dai discendenti di Adamo basterebbe togliere l'imputazione, ma ciò è chiaramente respinto da un canone del Concilio di Trento. Secondo Rosmini, i pelagiani hanno ridotto tutto alla colpa, disconoscendo il peccato, mentre i giansenisti hanno ridotto tutto al peccato, disconoscendo la colpa. La Chiesa, sempre nel mezzo degli estremi errori tenendosi, ai pelagiani contrappose la nozione di peccato da essi ignorata, ai giansenisti contrappose la nozione della colpa di cui dimenticavano la natura. mantenendo ella così separate le due nazioni, né mai lasciando che o l'una o l'altra si sopprimesse. Quanto tempo mi resta ancora? Però devo saltare il punto 10. Allora faccio il punto 11. Punto 11 è quello: peccato personale univoco oppure peccato anale. Cioè ci si può chiedere se per salvaguardare la volontarietà del peccato originale originato contro gli opposti estremismi di pelagianesimo e giassinismo sia sufficiente la sola distinzione rosminiana tra peccato e colpa, così come Rosmini la propone, oppure se sia sufficiente la distinzione tra volontà libera e volontà necessitata. Per rispondere a questa domanda si può anzitutto ricordare quanto abbiamo già detto, che cioè la distinzione tra peccato e colpa è di fatto solo concettuale e non reale. Ciò significa che nell'individuo concreto peccato è anche colpa e la colpa è anche peccato. In secondo luogo, bisognerebbe ricordare il contesto storico nel quale la bolla di Pio V ha condannato le proposizioni di Bari. In parole povere, si può dire che sia Baio sia la bolla anche di San Pio V danno una interpretazione abbastanza univoca del peccato originale, hanno una concezione univoca del peccato originale. E ormai da tutti oggi invece è accettato che il concetto di peccato originale è un concetto analogo. Questa analogia però non sempre è rapportata a tutti gli elementi che costituiscono l'essenza del peccato abituale, quali la sua causa, la sua essenza intrinseca, le sue conseguenze, il suo rapporto con la volontà di Dio, il suo rapporto con la situazione rispetto alla salvezza. Se l'analogia si estende giustamente a tutti questi elementi, allora, come si afferma che è analogo il concetto di peccato per indicare la particolarità del peccato originale originato, così si deve affermare anche che è analogo il concetto di colpa per salvaguardare la colpa originale originata. In questo caso si può affermare la colpevolezza del peccato originale originato senza necessariamente negarne la sua propria volontarietà per trovarla invece nel capostipite Adamo, ma anzi proprio per salvaguardarne la sua propria volontarietà. Peccato di Adamo, osserva Rahner, rappresenta per noi un dato teologico solo in rapporto all'origine della nostra situazione di peccato, nella quale ci riconosciamo. Teologi contemporanei ormai non fanno più distinzione tra colpa e peccato e partono dal tacito presupposto che sia impossibile parlare del peccato senza la colpa. Se si adopera un concetto analogo di colpa, per esempio, per cui una cosa è la colpa concepita nel primo uomo e un'altra cosa è la colpa concepita nel peccato originale degli uomini, si può concepire la colpa collegata alla volontarietà d'una libera necessità, d'una libertà, come una, cito una espressione di Rahner, con determinazione originaria e permanente ad opera della colpa altrui. È un concetto che purtroppo non ho il tempo di specificare. Concludo veramente. La teologia rosminiana del peccato originale poggia su principi apparentemente antinomici. A volte il roveretano afferma che il principio del peccato è nella persona, altre volte lo colloca nell'animalità. Ma se si riflette bene su quanto Rosmini vuole dimostrare, ci si accorge che non si tratta di due principi opposti, bensì di due prospettive della medesima natura umana. La prospettiva della personalità e quella dell'animalità. Il processo generativo della natura umana procede dall'imperfetto al perfetto, dall'animale al personale, e se si applica la legge di questo processo allo sviluppo delle azioni umane, si può dire che si compie un'azione personale solo alla fine di questo processo evolutivo, quando cioè il principio senziente si eleva allo stato di soggetto intellettivo e personale. La natura poi è la modalità concreta della volontarietà del o nel peccato originale originato, non è oggetto della definizione dei canoni tridentini, i quali si limitano ad affermare che esso ha vera e propria ragione di peccato e che inerisce a ciascuno individualmente come suo proprio. La riflessione teologica può quindi offrire, e di fatto ne ha offerto, differenti e alterne spiegazioni lungo il corso della sua lunga tradizione. La spiegazione data dal Rosmini nel contesto della sua concezione del peccato originale come una stortura della volontà che è deviata dalla concupiscenza ed è priva della giustizia originale, quindi della grazia santificante da Dio liberamente elargita all'inizio dell'umanità, è una interpretazione teologica condizionata inevitabilmente dalla problematica del suo tempo, cui non si può negare il diritto di cittadinanza tra le varie opinioni teologiche liberamente disputate sull'essenza del peccato originale. Essa può essere classificata come una critica al perfettismo, a quel sistema, cioè, cito Rosmini, che crede possibile il perfetto nelle cose umane e che sacrifica i beni presenti alla immaginata futura perfezione. Esso è un difetto dell'ignoranza. Esso consiste in un baldanzoso pregiudizio per il quale si giudica dell'umana natura troppo favorevolmente e se ne giudica sopra una pura ipotesi, sopra un postulato che non si può concedere e con una mancanza assoluta di riflessione ai naturali limiti delle cose. All'uomo tentato dalla superbia e dal desiderio di autonomia morale, l'esistenza del peccato originale ricorda il dovere e la via dell'umiltà. Gli ricorda in modo particolare la concretezza di una libertà umana ferita, di una condizione umana peccatrice e precaria, non sempre decifrabili e condivise da una visione filosoficamente razionalistica della vita e del futuro. Contro una concezione puramente fideistica e vanamente volontaristica delle verità fondamentali della fede, il Rosmini ha voluto dare dignità filosofica, che è come dire dignità umana, ad una verità dogmatica di difficile spiegazione, ricordando i limiti della filosofia che si deve lasciare illuminare dalla fede e dalla rivelazione, e i limiti di una libertà umana che deve accettare precarietà e condizionamenti senza perdere la capacità di infinito e l'apertura alla trascendente volontà di Dio. Conclusione, il Rosmini, nell'ansia apostolica di preservare il pensare cristiano da false concezioni razionalistiche e naturalistiche dell'uomo e del mondo, col sostenere la volontarietà del peccato originale originato, si stacca indubbiamente dal modo comune con cui la esprime la dottrina cattolica classica. Egli vuole offrire al pensiero filosofico moderno l'aiuto della rivelazione perché l'uomo cessi di essere, cito, un enigma a se stesso, un enigma insostenibile alla propria natura. La sua riflessione teologica contiene degli aspetti problematici, come la teoria della trasmissione del peccato originale, elaborata nell'ingenuo tentativo di spiegare il dogma alla luce delle ipotesi delle scienze empiriche. Questi aspetti hanno scarsa probabilità di essere omologati dalla teologia contemporanea. Ciò che invece tornerà sommamente utile alla presentazione attuale del dogma del peccato originale è una sua forte valenza spirituale. La meditazione rosminiana sul peccato originale è commendevole per l'orientamento mistico a cui conduce espressamente, osserva lo Sciammagnini, e Rosmini discopre nel peccato originale il movente massimo di quella umiltà che sta a fondamento della concezione cristiana della vita. Una concezione puramente terrena dell'uomo e del mondo, priva di apertura al trascendente, cerca e trova la sua gratificazione nella materialità delle cose, mentre una visione cristiana della vita, consapevole della caducità delle cose terrene e della fragilità dei sentimenti umani, cerca le realtà dello spirito, superando il conflitto con la carne mediante la mortificazione e la penitenza. A seconda che si accetti o si rifiuti il dogma del peccato originale, si affrontano le circostanze della vita e della morte con speranze e certezze ben differenti. Il mondo, nella misura in cui vive lontano da Dio, prosegue la strada del primo peccato, posando sui beni finiti la sua brama di infinito. La Chiesa, peregrinante nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni che appartengono all'età presente, Lumen Gentium, nel portare la figura fugace di questo mondo, promuove il cammino verso l'assoluto e indirizza verso l'alto la nostalgia di eterno dei suoi fedeli. La morale e l'ascesi del cristianesimo superano gli imperativi etici della ragione filosofica perché dispongono di coordinate rivelate capaci di aprire sentieri di santità e di perfezione oltre ogni possibilità puramente umana. Rosmini, a mio parere, è un grande pioniere di questi sentieri di umanità aperti all'assoluto, ma percorribili con la fatica del pensiero e nella compagnia della fede. Grazie.